Questa è la strada che hanno percorso i santi e che stiamo percorrendo anche noi. Sono convinto che qualche sacrificio lo state facendo, l'avete fatto. Sì, può darsi che anche in questo momento, ecco, il banco non è tanto comodo, ci siano dei sacrifici. Perché voi sborsate questi sacrifici, queste monete così care, così preziose? Per la gioia spirituale, che non ha prezzo. Tanto è alta, tanto vale, tanto conta, tanto ci fa sperimentare la nostra spiritualità, la presenza in noi di un germe di immortalità, tanto ci fa sperimentare la nostra origine dalla felicità di Dio. Noi siamo partiti da una fonte, da una sorgente, che è la sorgente della vita, la stessa sorgente della felicità, che è Dio. Dio, chi ci ha creati? Dio ci ha creati. E chi è Dio? L'essere perfettissimo, cui manca niente, che ha tutto, che possiede tutto, che può tutto, tutto ciò che vuole. La felicità. Noi stiamo percorrendo la strada che hanno percorso i santi per comperarsi che cosa? La gioia. È la nostra vocazione cristiana. Ed è giusto quando si porta un bimbino, un neonato al battesimo, è giusto far festa. E quando si portano i fanciulli alla prima comunione, i ragazzi alla santa cresima, e quando voi vi siete sposati, e qualcuno attende di sposarsi, è stata fatta una grande festa, le nozze cristiane all'altare di Dio, nella chiesa. Che grande festa! E anche quando ci faranno i funerali. Felici i paesi dove ancora è consentito suonare le campane a festa ai funerali. Certi paesi, quando si porta il feretro in chiesa, si suonano le campane come a Pasqua. Bellissimo, sì. Il cristianesimo è venuto a portare una grande notizia a questo mondo, che con la morte non è tutto finito, ma incomincia il bello. Dopo questi anni di allenamento, di preparazione alla gioia immensa di Dio, ecco che si spalanca la porta dell'aldilà. Dove abita la sorgente della nostra vita? Donde siamo partiti? Chi ci ha creati? Dio. E perché ci ha creati? Ci ha creati a sua immagine e somiglianza per conoscerlo, amarlo, servirlo in questa vita e goderlo nell'altra, venuti da Lui e incamminati già di ritorno. Come siamo stati qui? Come siamo venuti alla luce? Abbiamo incominciato il ritorno. Siamo appena venuti ed è già tempo di rifare le valigie. Perché siamo venuti qui in attesa, in preparazione dell'ingresso nell'oceano della vita, l'oceano della felicità che si chiama Dio benedetto, il cui nome è santo, Dio.